stare con gli amici, come quando al bar si dice: guarda quei due, sembrano felici. Litigando, camminando da una stanza all'altra, improvvisando un ballo, potevamo essere una bella coppia, come quelle che non si lasciano mai. Ma l'amore che cos'è? Come un cielo con le stelle, come un mare che non c'è, un'occhiata in una notte, ma la poesia dov'è? Come un attimo d'immenso, come un fiore che non c'è, una cena soli io e far vacanze, ricordare poi come eravamo, ritrovarsi a cucinare tra un budino ed un ti amo, e sognando, progettando viaggi per il mondo, ripassando il ballo. Ma l'amore che cos'è? Una sera con la luna, come un mare che non c'è, una storia come tante. Svegliarsi, ritrovarsi soli come prima, domandarsi come è stato dalla sera alla mattina, camminando e ripensando da una stanza all'altra, com'è che fa quel ballo? Potevamo essere una bella coppia, come quelle che non si lasciano mai. Ma l'amore che ne sa, se stasera c'è la luna, o se l'onda se ne va e finisce la fortuna. Ma la poesia dov'è? In quell'attimo d'immenso, come un fiore che non c'è, come questa notte senza me.